Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento con la cronaca alle 6.30 alle 13.30, due edizioni, le storie, i fatti, i personaggi che ci parlano dell'Italia in controluce. 31 anni fa uccise suo padre, oggi lei con il suo parere favorevole ha contribuito a restituire a quell'uomo la libertà. Lui è Vincenzo Guagliardo, ex brigatista rosso responsabile della morte del sindacalista Guido Rossa nel 1979. Lei è Sabina Rossa che ha perdonato e giudicato, quell'uomo è cambiato e può essere liberato. L'ha intervistata Andrea Viali. Credo quella assunta dai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma sia stata una decisione giusta, nel senso che è stata valutata l'assunzione di responsabilità e la consapevolezza di quello che è stato recato alle famiglie e alle vittime. Io avevo conosciuto e incontrato Vincenzo Guagliardo, anche Nadia Ponti, nel 2005 e credo di aver fatto insomma un lungo cammino e di poter dire oggi di aver constatato personalmente che queste persone, in quanto persone e non reati, sono oggi diverse e sono assolutamente cambiate. Senta, la sua esperienza personale può voler dire che in qualche modo oggi sul terrorismo è possibile voltare pagina? Credo di sì, credo che occorra oggi cominciare ad avviarci un percorso per comprendere appieno quello che è accaduto negli anni bui del terrorismo per poter voltare pagina, però deve essere un atto che non deve essere lasciato solo alle vittime e agli ex colpevoli, ma deve riguardare l'intera società. Questo è sempre un fatto, anche a distanza di 30 anni, anche laddove si va a chiedere alle vittime, lei ha perdonato, un fatto che è sempre stato lasciato gestire tra come se riguardasse un fatto privato, come se riguardasse esclusivamente le vittime di allora e gli ex colpevoli di oggi, ma questo non è, perché stiamo parlando della storia recente del nostro paese, stiamo parlando di una storia che non è stata solo criminale, ma una storia che è stata anche politica. Credo che oggi si potrebbero affrontare i tanti nodi irrisolti, si potrebbe fare maggiore chiarezza, maggiore luce su quello che è accaduto in quegli anni. Lei è anche un esponente politica. La politica in questi giorni ha parlato di terrorismo, ma in termini decisamente diversi. C'è chi ha paragonato le Brigate Rosse ai pubblici ministeri, mi riferisco alla vicenda di Milano, una vicenda che va in una direzione opposta rispetto a quella che lei auspica. Sì, certo, qui c'è, io credo che ci sia anche superficialità, per non dire ignoranza, per non dire non curanza, non conoscenza di quello che è accaduto in quegli anni. Io penso che chi oggi compie questi gesti e fa queste affermazioni innanzitutto non conosce la storia del nostro paese e credo che sicuramente sì, ancora oggi questi argomenti sono usati come una clava nel dibattito politico e questo non deve succedere. Italia in controluce. Equitalia è un'agenzia pubblica per la riscossione dei tributi, porta ogni anno nelle casse dello Stato molte risorse, un fatto positivo per un paese come il nostro dove l'evasione e il debito pubblico marciano spesso di pari passo, eppure possono esserci degli errori e stanno infatti crescendo il numero dei ricorsi. Questa è la storia di un imprenditore, Claudio Pons, gestore della palestra Iron Gym di Saluzzo in provincia di Cuneo, che ha scelto una forma drammatica di protesta. L'ha intervistato Valeria De Rosa. Sono stanco, non so che pesci pigliare, perché più che dimostrare venga chiunque a controllarci, vediamo la vita dell'Iron Gym, abbiamo sempre tenuto i conti in modo chiaro, anche verso i soci, chi voleva vedere i conti erano su registri, entrate e uscite, non mi sono sicuramente arricchito ma indebitato, e allora mettiamo in piazza sta cosa. Ditemi che colpa ne ho, cosa ho fatto di così grave da essere messo a rogo, siamo tornati ai tempi delle streghe. Claudio Pons è in sciopero della fame. Ha smesso di mangiare perché non riesce più a onorare le rate del contenzioso con il fisco. Un contenzioso ritenuto ingiusto dal signor Pons. I fatti. Dopo una prima verifica nel 2005, durante la quale non era stata dimostrata la presenza di utili da parte della palestra, di cui il signor Pons è titolare, gli ispettori hanno dichiarato che comunque si è arricchito ai danni dello Stato. La cifra, già alta, è ulteriormente salita nel dicembre dello scorso anno, quando un secondo controllo ha portato la multa a raggiungere quota 65.000 euro. Abbiamo avuto una verifica e ci hanno imposto la partita IVA senza trovare nulla di strano, né evasione, né elusione, né arricchimento personale, ma sempre debiti, e questo non ci sta bene, quindi stiamo lottando e l'unica cosa che potevo fare attualmente era quella. Hanno trovato errori di forma, errori di verbali non fatti come secondo loro volevano, e lo statuto forse non era stato confezionato dalla commercialista anche in modo corretto, questo non lo so perché non sono un tecnico, a sentirlo era andata così, quindi errori formali ce ne sono stati, però sicuramente non da, secondo anche i legali nostri, eccetera, abbiamo avuto ragione in primo giudizio dei giudici tributari della provincia, poi a Torino hanno ribaltato il tutto, adesso siamo in Cassazione in attesa di giudizio, intanto è partita la multa, quindi prima di essere giudicati c'è già la multa in atto, e dicono che è normale, poi si vedrà, quindi noi non possiamo più pagarla, non so come faremo. Nonostante sia in attesa della sentenza della Cassazione, il signor Pons paga. Paga perché funziona così. Quando arriva la cartella esattoriale bisogna pagare, poi si vede. Basti pensare che anche in casi più semplici, ad esempio una multa stradale contestata il cui verdetto sia favorevole all'automobilista, non si ferma l'azione di Equitalia, che si muove solo su indicazione ufficiale del cliente, in questo caso il comune che ha emesso la multa. A questo proposito Equitalia scrive che la maggior parte degli errori contestati dipende dagli enti impositori e dunque è possibile bloccare la procedura con una semplice autodichiarazione. Vero se si tratta di una semplice bolletta già pagata e di cui si siano perse le tracce, molto più difficile se si tratta di un accertamento fiscale. Finché possiamo paghiamo, logico. Equitalia non è che si possa fare diversamente, no? Noi abbiamo come associazione abbiamo l'introito delle tessere dei soci che però purtroppo non serve mai la pena coprire il mensile, noi abbiamo delle spese altissime di affitto locali e spese generali, questo è un imprevisto che sicuramente non ci aspettava e questo alla lunga, adesso sono 2 anni che paghiamo già queste multe, ci ha portati fuori careggiata completamente e mi devo indebitare con un fido in banca sia conto palestra che personale, non è più possibile sostenere una cosa del genere. Nessuno mette in dubbio i risultati di Equitalia che in 4 anni di attività ha consentito all'erario di incassare circa 30 miliardi di euro recupero di evasione fiscale, ma se tanti cittadini protestano e lo fanno attraverso gesti estremi come lo sciopero della fame, forse c'è qualcosa che non va. Del resto basta dare un'occhiata ai dati e bastano quelli della sola provincia di Torino per avere un'idea. Oltre 5 milioni di cartelle emesse negli ultimi 10 anni, dal 2006 al 2009 oltre 13 milioni di iscrizioni di fermo. Procedure che hanno stravolto vite. Mauro Bordis, artigiano, aveva scoperto di avere la casa ipotecata e i fidi bancari sospesi per una cartella esattoriale da 6.000 euro, un debito non pagato entro la data di scadenza. Se n'è andato per un infarto. Claudio Pons vuole solo capire. Quando si arriva ad essere stanchi di una cosa del genere, proviamo a vedere se c'è qualcuno che può capire la situazione. Vorrei solo della chiarezza, io da capire bene com'è la situazione, se veramente eravamo passivi di questa punizione oppure no. Noi eravamo in buona fede avendo avuto un tecnico, un commercialista che aveva fatto questo statuto. Ma io chiedo chiarezza, non chiedo niente di, per carità, non voglio far vendetta o roba del genere, solo un chiarimento, perché non sono io che lo dico, sono anche legale, eccetera, perché continuano a dirmi ma c'è qualcosa che non va, cioè, sembra un po' un accanimento, diciamo, persecuzione e accanimento. Equitalia scrive che nel 2010 le cartelle contestate sono state 17.000 su oltre 18 milioni inviate, un dato messo in dubbio da tutte le associazioni dei consumatori che raccontano di oltre 1,5 milioni di ricorsi pendenti in commissioni tributarie e 6,6 milioni di misure cautelari. È tutto anche per questa puntata, vi ricordo che potete scriverci controluce@radio24.it. Buona giornata!